Tornati, benvenuti per chi viene per la prima volta, se qualcuno viene per la prima volta, sì, bene, allora baci a tutti, a voi Carlo. A voi Carlo. Vita da Carlo. Vabbè, no, io non dico niente su Marco e Francesca in particolare perché poi faranno loro, siamo qui per questo, però provo due informazioni velocissime su The Grit, che è una casa editrice che è nata nel 2023 e ha cominciato a pubblicare nel febbraio 2024 come antologia che è l'ordine sostituito, questa qui, che raccoglie 28 autrici e autori italiani contemporanei. E The Click è esclusivamente orientata, senza esclusioni di genere letterario, alle scritture sperimentali e di ricerca. Chiaramente Marco e Francesca si collocano più nello specifico una scrittura di ricerca, ma in realtà trovate nel catalogo anche cose vagamente classificabili come narrativa o poesia o come prosa, in qualunque modo la voglia intendere, ma con il presupposto che qualunque sia la strada deve essere deviante da quei tre o quattro modelli standardizzati che il mercato, soprattutto attuale, ci impone praticamente quando entriamo in libreria. Notilla sulla veste grafica, che come notate è un po' particolare, essendo una casa editrice di stampo prettamente sperimentale, avevo bisogno di una di un'immagine che corrispondesse ai contenuti, cioè che fosse adatta a libri che non considerano il lettore come passivo, soprattutto studio e disinteressato, ma come attore del fatto letterario e quindi anche della produzione dell'immagine. Dunque non ci sono in copertina i titoli degli autori, non c'è il marchio editoriale, il titolo c'è sempre, ma è sempre o accennato in maniera critica oppure scomposto, quindi è un po' da ricercare. Naturalmente tutte le informazioni le trovate sul dorso, ma ci dovete arrivare sul dorso, c'è bisogno del secondo o terzo sguardo. L'impianto grafico e le immagini che vedete sono a cura di Resti Tele, con un'illustratrice napoletana che ha avuto l'idea di impostare il lavoro come lavoro tipo grafico, cioè tipo grafico. Quindi ogni copertina si basa su un font che lei o crea o rielabora a seconda di alcune parole chiave che l'autore stesso del libro fornisce e da lì, come si può dire, parte per la tangente. Ora, poi chiaramente dopo avremo modo magari di, se vi interessa qualche titolo in particolare, oltre i due che presentiamo stasera, che sono Ocatre, Dottor di Francesca Pirinelli e prima dell'oggetto Marco Giovenale, le ultime due uscite, avremo modo di parlare di vedere anche gli altri titoli, se avete curiosità, insomma ci sono io, per quanto un po' assente mentalmente posso farvi da guida a sghieppa. I titoli in catalogo finora sono 12, arriveranno a 15 entro la fine dell'anno e poi vediamo che succede, perché insomma stare sul mercato con questa ordinazione è facilissimo, quindi contribuite, questo è grazie, e grazie Alberto, ovviamente che sarà la tipo ventesima volta che ospita progetti miei collegati a me in qualche modo, quindi insomma non so perché lo fa. Non sono da ringraziare, sono da ringraziare. Invece grazie Alberto e grazie Carlo. Grazie Alberto per averci dato questa meravigliosa sede e grazie Carlo che ha voluto parlare nonostante non ci sia assolutamente portato, ultimamente non ha voglia. Grazie. E grazie a Marco Giovenale. Addirittura. Che ovviamente, per quanto mi riguarda, è il punto di riferimento per la scrittura di ricerca. Sì, addirittura. Nel senso che avendo inaugurato in Italia, insieme a un manipolo di personaggi di altrettanta bella caratura, e la stagione della prosa in prosa nei primi anni 2000, ha portato qui il movimento che altrove, fuori dall'Italia, invece è proseguito oltre le avanguardie e ha potuto portare avanti le proprie sperimentazioni in maniera proficua, mentre qui da noi per un tot di anni si è interrotto il discorso a vantaggio di un mainstream sempre più pervasivo che ha anche avuto come effetto secondario quello di non far conoscere a molte persone, me compresa per tanto tempo, quello che invece sono i frutti della ricerca letteraria. E dal momento in cui è uscito Prosa in Prosa si sono fiorite una quantità di attività e di produzioni letterarie delle più varie, commiste con altri generi e con una quantità di esiti sempre più differenti, che fa onore al genere, nel senso che chiamiamolo genere perché genere non è in effetti, no? E anzi si distingue da quello che è generificabile proprio per questa sua volontà di sfuggire alla catalogazione e alla capacità dei propri autori di rimanere, diciamo, impiastricciati in una forma di autoreferenzialità che poi porta a riprodurre sempre lo stesso stile, variato a piacere, ma un pochino a impantanare anche il discorso e a far addormentare i lettori su quello che considerano di buon gusto, di ottimale, soprattutto quello che considerano le case editrici. Per questo The Click è tanto meritevole, io appunto ho ringraziato Carlo, ma anche perché ha dato l'opportunità a delle nuove voci, oltre che a degli autori consolidati come Marco Giovenale, di potersi esporre e di poter dare voce a quelle che sono i propri tentativi in questo campo. Sì, poi bisogna dire che Carlo ha tuttora il merito di essere anche il direttore di collana di un'altra serie letteraria che sostanzialmente è affine a questa, che è la collana Glossa della casa editrice Piedi Mosca, che è anch'essa a Perugia, e come appunto curatore di collana ha fatto altrettanti libri, forse anche di più, più di 12 a questo punto. Siamo a fine anno saremo pari, 15-15. Ecco. Quindi insomma 30 libri di scritture non omologate, non omologabili, che diciamo fanno lo slalom tra i generi confondendo le acque, non è nell'editoria per come si è configurata negli ultimi 40 anni assolutamente una cosa da poco, e io credo che insomma bisogna rendergliene merito sia come curatore anche come autore, perché tra l'altro questa affinità viene dal fatto che lui scrive così anche e anche ovviamente non all'interno delle sue collane, ma sempre con Piedi Mosca oppure con Tic, ci sono suoi libri che seguono anche percorsi analoghi, affiancabili a molte delle scritture che sono poi invece pubblicate da lui come editore. Quindi insomma c'è veramente una sintonia di fondo che non è scontata. Cioè, oggi è un oggi che in realtà appunto ha una quarantina d'anni di storia. L'editoria, io mi ricordo all'inizio degli anni per esempio 2000, se si andava da un editore a proporre prosa breve, perché poi sostanzialmente buona parte di questi titoli affrontano danno casa proprio a questa particolare forma di scrittura che è la forma in prosa di piccole dimensioni, se si andava da un editore e a proporre prosa breve si veniva trattati non diversamente da come vengono trattati i poeti, forse addirittura peggio, perché i poeti sono chiaramente e notoriamente le persone meno amate dalle case editrici. Se la poesia non vende, la poesia non la legge nessuno, la poesia se non va in televisione non esiste, la poesia qui, la poesia là, la poesia non esiste, anche se ci va in televisione non esiste lo stesso, quindi gli editori la tengono a distanza. Quando uno andava a proporre una prosa di piccole dimensioni, gli editori scappavano a gambe levate, con le mani levate al cielo. E questa cosa qui, ovviamente, non soltanto grazie a Prosa in Prosa, io ringrazio comunque Francesca di aver dato atto che comunque un po' ha inciso anche quello, però negli ultimi 20 anni è arrivata un po' a cambiare questa situazione. E Carlo probabilmente è il primo tra i primi, insieme a pochi altri editori, ad aver intercettato questa possibilità. E quindi niente, come diceva lui, diamogliela questa possibilità all'editoria. Che poi voglio dire, il discorso è anche proprio quello della confusione dei generi, per cui trovate anche libri come per esempio Power Pose di Michele Zaffarano, che è impaginato e organizzato secondo il normale a capo che noi attribuiamo come tratto distintivo della poesia. Però poi uno lo legge e capisce che con la poesia forse c'ha a che fare fino a un certo punto, cambia un po' le regole di quello che noi attribuiamo dove debba essere il comportamento in generale di un testo di poesia. Boh, volevo fare un po' di pubblicità anche altri titoli, tra cui per esempio c'è un altro anche di Mario Corticelli, Il libro della natura e del continuo, che già detto così è un titolo vagamente seicentesco, una serie di veramente un trattato sulla natura, e che è impressionante nel suo gioco linguistico, nel suo gioco con gli animali, con la realtà fisica. Addirittura mi è capitato di invocare Lucrezio per questo libro. Chiaramente è giocoso, non nulla di troppo serio. Ecco, l'elemento anche della giocosità è un altro elemento che in letteratura italiana spesso viene messo da parte. Autori di poesia giocosa, per esempio, come Vito Riviello, hanno sempre lamentato questo limite della poesia italiana, che nel momento in cui scatta il sorriso sul volto del lettore c'è qualcosa che non va, qualcosa che non funziona, qualcosa che deve essere condannato. La leggerezza, che non è l'insostenibile leggerezza dell'essere, ma è una levità forse inerente proprio a queste nuove forme di scrittura, secondo me invece è un tratto che va meritoriamente, a cui va affidato un po' di spazio, e meritoriamente appunto è quello che Carlo fa. E non so se adesso vogliamo leggere qualcosa. Perché no? Per dare idea di cosa stiamo parlando. Sì, benissimo. Ecco, allora, io leggi tu come preferisci. Io devo solo fare un gesto propiziatorio iniziale. No. Questo. Per leggere ho bisogno di questo. Da dove cominciamo? A me non dispiacerebbe sentire qualcosa di tuo. Mi sono distratta. Sì. Hai dei desideri in particolare, qualcosa che ti ha colpito? Mi piacerebbe leggere a me due testi tuoi dopo. Ok. Che sono verso la fine però, che sono quello a pagina 71 e quello a pagina 113, ma ti chiederei, perché poi è legata una domanda, sì, che volevo farti, di uno dei primi, pagina 13, da pagina 13 a pagina 15 c'è un testo, i testi hanno titoli che sono orientati verso destra, questo si intitola Opzione Forma. Sì. Opzione Forma. L'ho conosciuto appena finita l'università. I ragazzi non erano ancora maturi. Il lago arrivava fin qui e quello che galleggiava sull'acqua mi disse: «Come stai? Qual è la tua prima impressione?» «A parte il fatto che l'occhiata è ancora in superficie, entriamo, direi», ho risposto. «Da qui sembra perfetta per farci bambini in scala reale. In seguito, se avanzerà spazio, inserirei anche una bella isola dove per ora c'è soltanto un bagnetto». «Bene, andiamo a ragionare. È grandioso, poiché tu hai un budget e poi, ok, se così non fosse, dovremmo giusto trovare un paio d'assi nella manica. Non è forse un sogno per te, la mia prima vista? Mi piace. Insomma, potrei farci un pensiero. Quindi, se diminuiscono i soldi, può essere una valida opzione lasciare la forma così aperta a tutto il lago? Certamente, potremmo anche andarci dentro di forza. Dopo di te, però, mi sembra molto grande. Guarda, qui senza dubbio si può, perché già ci sono io. E in seguito potrei inserire delle scale. Ok, andiamo a vedere. Per quanto l'ambiente, come ti ho detto prima, mi sembra già. Benvenuto sulla donna che si chiama tua madre. Si nota da subito una grossa differenza. C'è anche molta più luce naturale. Sì, c'è un panorama del tutto incredibile. Prima sembrava che mancasse qualcosa. Puoi anche spostarla in cucina. Insomma, è enorme, ma è anche più elegante. Ti mostro il posto che preferisco. Vediamo. È stupenda, è più bella di qualunque altra sala da bagno abbia mai sognato. Che bella doccia, è perfetta, è praticamente un'isola. Hai ragione, vedi che bella? Questa prima scorreva solo in su e in giù. Sì, davvero, puoi dirlo. Insomma, è magnifica. Ma guarda qui, mi fa impazzire, davvero, è stupenda, bellissima. Un paio di gradini osservano il panorama dei tetti a castello. Ci riesce chi lo immagina risvegliarsi senza tutti gli oggetti tecnologici che inevitabilmente resteranno indietro, dimenticati. Li immaginano con la certezza che gli piacerà come sempre ed è di nuovo perfetto. Qui c'era un muro esterno, qui invece la stanza è in realtà, qui l'esatto ad oro ed è tutto molto più piccolo di quanto era sembrato un tempo, in vero legno e in nero. Ma ecco l'ultima sorpresa a cui abituarci: prendere il caffè e leggere il giornale tutte le mattine, facendo ancora progetti per i figli. Voglio portarli in giro con la barca e quando saremo dentro fingeremo una piccola forma che galleggia sotto di noi e ti ringrazia per averci permesso di partecipare a questo progetto spesso felice. Va bene, ma oggi siamo sopra un banco di scale. Saranno circa 1 milione, tramite cui ci inabissiamo di almeno 3 metri. Dovremmo prenderne qualcuna e portarla in casa. Sento che la pressione diminuisce appena mi dai il braccio. Allora, la domanda è, allora, il milione di scale e il braccio, no, montale, ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale, ok, quindi può, ma tutto il testo in realtà che si dipana per 2 pagine e mezza è sostanzialmente alla maniera fluida e liquida con cui il testo inizia e poi continua a fare riferimenti a questo, una sorta di ondeggiamento, no? C'è comunque un lago, un qualcosa di fluido e questa fluidità penetra nella modalità di scrittura stessa del racconto, cioè non è un testo che parte da A a B e ci dice esattamente che cosa sta succedendo, però noi capiamo in questo ondeggiamento che il discorso è quello della costruzione di una famiglia, comunque di un nucleo familiare, dei figli, le piccole abitudini come leggere il giornale al mattino sedendo e prendendo il caffè. Allora, la domanda a Francesca è: questo è un testo nato attraverso Googlism o scritto così? Questo testo è nato utilizzando, questo si svelano le tecniche, certo, però è giusto così, utilizzando un registratore vocale, okay, e ponendolo davanti a un programma televisivo, ecco, dove però non c'è nemmeno in quel caso una sceneggiatura, bensì è uno di questi programmi un po' trash in cui si costruiscono case, quindi si fanno vedere agenti immobiliari che vagano e... Sì, io li adoro questi programmi, sono un architetto, mi viene spontaneo seguirli, però riconosco il trash in tutto questo, ma è anche vero, verissimo, che quelle sono persone reali, sono persone reali, al di là del fatto che ci sia un gioco registico dietro, ma non è reale, cioè non è costruito quanto lo può essere invece un film oppure un romanzo, ecco. Quindi è una forma di ascolto della realtà, di trascrizione, anche se automatizzata e aiutata dal telefonino in sostanza, di frasi tipo, quindi un discorso che si sviluppa all'interno di una determinata realtà, ma che sottratto dei propri referenti diventa adattabile a una fantasizzazione, a un'immaginazione che non è dell'autore, perché io ho visto un'altra cosa in televisione, ma è di chi riceve il testo ed è in grado di ricreare da solo ciò che gli viene dato. Sono strumenti, sono punti d'appoggio, e sì, c'è qualche riferimento, qualche gioco, come per esempio il riferimento a Montale, ma è più un divertimento mio, certo. C'è anche chi può non coglierlo e, certo, e la cosa funzionerebbe, penso, lo stesso. Assolutamente. E questo è interessante perché poi, secondo me, ecco, un testo come questo è un po' un punto di contatto tra due linee della scrittura statunitense che hanno più o meno orientativamente lo stesso atto di nascita, cioè il periodo a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. E parlo del FLARF, scritto attraverso la tecnica del Googlism e della scrittura concettuale, ossia di quei pazzi scatenati che andavano su Google, sul Google dell'inizio degli anni 2000, quindi un Google estremamente diverso da quello che poi usiamo adesso, molto più infiocchettato e morigerato e controllato, e inserendo delle chiavi di ricerca estremamente distanti dal punto di vista dei campi semantici l'una dall'altra, tiravano fuori delle storie incredibili che a volte loro piegavano, facevano inclinare verso la critica politica oppure verso una esagerata e scherzosa pornografia letteraria, così costruendo tutta una serie di libri che per i primi 15 anni del nuovo secolo hanno un po' occupato anche pagine di riviste letterarie famose, come Poetry per esempio, ne cito soltanto una. I loro cugini, si scherzosamente si definiscono l'un l'altro cugini reciprocamente, sono gli autori della cosiddetta scuola della scrittura concettuale, cioè persone che prendono tutto il New York, un numero del New York Times e lo trascrivono tutto quanto e questo diventa un testo, oppure come si chiamano, i report del tempo, i meteo, e quindi praticamente per un arco di tempo definito trascrivono esattamente tutta questa sequenza di vicende semplicemente banalmente atmosferiche. Tutto questo ha in Italia anche degli esecutori ulteriori, delle voci anche molto interessanti, una su tutte, penso Claudio Salvi, che comunque non ha pubblicato molto, ma secondo me sul fronte soprattutto degli esperimenti di tipo concettuale è particolarmente interessante, perché lui invece di fare dei testi diciamo così installativi, cioè dei grandi blocchi di testo, pensate appunto, ecco, un intero numero del New York Times che diventa libro, una cosa sostanzialmente illeggibile, diventa un oggetto che uno sfoglia, ma insomma diciamo è la prassi, è il metodo, è la procedura che viene in primo piano, mentre lui invece riesce a fare attraverso una serie di scelte di contrainte precise un lavoro invece leggibile, interessante e soprattutto dotato di una qualità di brevità non indifferente. Ecco, un testo come questo secondo me si pone all'incrocio tra la, per quello io ho domandato all'inizio se c'era Googleism, cioè se c'erano sono stata una ricerca per chiavi di ricerca, magari acqua, lago, famiglia, e poi tutte queste cose andavano a raccontare una storia. Invece è una trascrizione, cioè è sostanzialmente un altro modo che non da tutta una tradizione novecentesca delle avanguardie, ma che oggi dispone di strumenti che le avanguardie non avevano oggettivamente, in particolare internet, è un altro modo di mettere l'inconscio fuori da se stessi. Cioè di non, io cito sempre questa bipartizione del discorso letterario, il letterato o l'autore che si concentra sull'io, sul moi lacaniano, su quello che appunto anche Carmelo Bene definisce appunto io, e quello che invece sempre Bene, invece insistendo sull'altra polarità lacaniana, chiama soggetto dell'inconscio. Il soggetto dell'inconscio è assolutamente irregolamentabile, non irregimentabile, non cerca di sottoporre al lettore una figura già prescritta del testo e dei percorsi ermeneutici che il lettore deve fare per arrivare al testo. Perché non lo sa lui stesso, e questo è il senso della ricerca, della letteratura di ricerca. È una testualità che costruisce il terreno su cui sta camminando mentre cammina e nell'atto del camminare, un po' come fa tanta parte, e non a caso molte delle nostre scritture sono state anche accompagnate da autori e esecutori di musica improvvisata, appunto è quello che fanno autori, prima si parlava di Luca Venitucci, oppure si può parlare di Marco Ariano, Roberto Bellatalla, Elio Martuscello, proprio perché appunto il percorso è un percorso di tipo di questo tipo qui, cioè un percorso che non è già stabilito. E la cosa interessante è appunto che il nuovo secolo permette di continuare a far riferimento all'idea di un soggetto dell'inconscio, cioè di qualche cosa che emana da una fonte non conosciuta e che sta costruendo un percorso nel momento del suo farsi e non lo conosce prima, non lo ha stabilito prima, non gli ha dato delle regole metriche, ritmiche, narrative, di plot, eccetera. Ma nello stesso tempo questo inconscio è proprio dislocato, cioè non è neanche più il suo. e quindi è quello di quella massa gigantesca di informazioni che noi conosciamo sotto il nome di internet, per esempio, o che pure è rappresentata da quella da quell'infosfera impressionantemente amica barra ostile che è la comunicazione generalista. Non a caso queste scritture che si sono venute e di cui appunto il tabloid di cui vi dicevo prima parla, quello che sta all'entrata, che si sono venute sviluppando in questi ultimi 15 anni, si sono venute sviluppando, 25 anni, si sono venute sviluppando in questi ultimi 25 anni, cioè in un momento in cui questa è l'aria che si respira e i linguaggi si sono estremamente semplificati. Se noi cerchiamo una parentela letteraria, non la dobbiamo andare a cercare nel Sanguinetti di Laborintus, ma casomai nel Sanguinetti delle Postkarten, cioè un linguaggio estremamente semplice, limpido e che a volte diciamo va per suoi percorsi non necessariamente ironico-satirici nei confronti del linguaggio contemporaneo. Altre volte invece proprio prende a proprio oggetto di critica esattamente la banalità e la banalizzazione del linguaggio. Questo succede per esempio nei primi libri di Alessandro Brogi, autore purtroppo scomparso e che è stato uno delle colonne, anche traduttore in qualche maniera, tradotto anche dal francese, di scritture di ricerca all'inizio di questo secolo qua. Scusate se ho chiacchierato molto, però mi sembrava interessante sì, proprio prendere questo testo come esempio di un luogo di incrocio tra stili, tra momenti. Sì. Ecco, io per rendere la pariglia vorrei farti leggere qualcosa. E che cosa leggiamo? Dimmi tu. Cosa vogliamo leggere? Metti il gettone nel jukebox e il jukebox parla. Allora, per esempio, a pagina 83. Andiamo verso la fine. Sì. Allora, questo si intitola Cool Time. Il passaggio alla temperatura zero lo porta ad avere meno fiducia nelle cose. Si vede che si sfaldano, o loro restano alte, si sgretolano all'indietro. Le cose, questi oggetti, la filosofia in Occidente se ne è prese di notte, hanno a che vedere con le fratture. Le cose hanno a che vedere con il frantume, afferma il maestro di disegno. È vecchissimo, canutissimo, perde sangue dalle orecchie e continua a camminare abbastanza sbilenco per la città. Non è perfettamente certo di quale città si tratti. Sono perfettamente a proprio agio tutti nella stradetta neofascista, dove la Galleria Galina inaugura una mostra di Hartung. Giallini e meno neri e verdi segni numero di 4 in acrilico, laccato di fissatore. Strano, dicono calce, dicono fermati, oh istante, sei così bello, sei così Hartung, fermati un po'. Entra e il cappotto ha le falde molto larghe, è vestito pesante, l'estate ha tradito tutti, è qui a scoprire le carte. Lo prendono per eccentrico, non pensano che semplicemente gli sono rimasti addosso i vestiti dei giorni precedenti, più freddi. Si sa che dorme con uno stabilizzatore di tensione sotto il letto. Serve a non far saltare il PC, ma ovviamente gli ha guadagnato fama di folleggiante in erotismi bizzarri. Come avete potuto notare, Giovenale rincara la dose sul fronte dell'umoristico, ecco, perché comunque sono in questo particolare brano c'è spesso il sorriso evocato dalle parole, che però non sorgono, diciamo, lineari a descrivere, nemmeno nella punteggiatura, nemmeno nella costruzione della frase, qualcosa di perfettamente definito. Ci sfugge sempre di cosa sta parlando Marco in questo testo e in generale nei suoi testi, dove però è chiaro che questo è un libro diverso dagli altri. Io l'ho trovato godibile ma differente, per intenderlo godibile io significa che cioè, provenendo dall'apprezzamento delle precedenti scritture di Giovenale e in particolare delle ultime pubblicazioni, dove c'è un lavoro di scrittura molto che porta a realizzare dei periodi molto frastagliati, brevi, con dei ritmi, con degli accenti un po', ecco, anche difficile, che lasciano il lettore stupefatto sul bordo di un precipizio. Qui trovo più continuità anche nella costruzione di queste immagini, c'è più unitarietà all'interno di un brano dove c'è una sorpresa, non è una sorpresa completamente inaspettata, anzi sembra quasi quasi di riuscire a cogliere un minimo di discorso logico. E vorrei sapere da te qual è il, a parte il fatto che te l'ho chiesto Carlo Sperduti, ma qual è il percorso che ti ha portato a scrivere questo libro, che è differente dagli ultimi, da Oggettistica in particolare, e da chi l'ha preceduto. Infatti il titolo non è completamente riferito a Oggettistica, che è il libro uscito per TIC l'anno scorso e che raccoglie una serie di testi a volte anche abbastanza giocosi, insomma, anche abbastanza puntati con la canna del fucile puntata su alcuni tic della contemporaneità. È diverso nel senso che è un prima dell'oggetto che viene anche cronologicamente prima di quei testi lì, perché sono testi nati in linea di massima nell'arco degli ultimi 20 anni, ma in realtà ce ne sono anche alcuni precedenti agli anni 90, con una natura più, diciamo, evidentemente narrativa. Beh, questo è un caso, no? Insomma, una sorta di visita a una galleria d'arte o comunque di una persona che non sta completamente bene, però sottoposta questo elemento narrativo a tutta una serie di inciampi. Di nuovo, Carmelo Bene direbbe, si fa lo sgambetto da sé, ecco, la scrittura, e ogni volta lo fa in maniera diversa, spessissimo lo fa ricorrendo, mantenendo la struttura di massima di una narrazione che io potevo scrivere anche 20-30 anni fa, però lo fa a livello microstrutturale, cioè a livello addirittura in alcuni casi della punteggiatura, in altri casi della costruzione di microparentetiche, oppure di conclusioni, chiusure, chiuse, o anche degli incipit che sembrano dare una scossa all'impianto narrativo generale. C'è un testo, per esempio, che inizia con un punto e uno spazio, quindi, come dire, la conclusione di un discorso precedente. E quindi sono, tra l'altro, testi, quasi tutti, che non hanno una natura costruzione, che non hanno a che fare col googlismo. Quindi non sono costruiti mettendo l'inconscio all'interno del discorso, all'esterno di sé e all'interno semmai di un grande calderone come può essere quello di internet, ma sono dei testi che vengono in realtà disturbati da meccanismi diversi, che sono però in questo caso completamente originati dal soggetto dell'inconscio, appunto. Ecco, quindi l'inconscio è quello mio, e questa è la differenza molto, credo, netta con altri libri, soprattutto un libro che si intitola Quasi tutti, che è uscito nel 2010. Va detto che anche Oggettistica non è scritto attraverso Googlism, cioè buona parte dei testi di Oggettistica sono testi scritti col registratore, per cui trovavo molto interessante il discorso della registrazione in una sorta di flusso costante che poi veniva riorganizzato sulla carta. E adesso però invece del jukebox facciamo che ciascuno legge il che tu vuoi leggi. Va bene, del mio o del tuo, che dici? Del tuo, dai. E poi possiamo scambiarci di nuovo i ruoli, assolutamente, però. Tanto. D'accordo. Allora io vi leggerei qualcosa. Allora, anche questo libro, vi faccio una piccola cronistoria delle mie pubblicazioni, certo. Due. Sempre con l'editore De Click, l'anno scorso ho esordito con un libro che si intitola La Saga, e non so se allinea da quelle parti. La Saga era stato all'epoca presentato sempre da Marco Giovenale, che ringrazio ancora perché mi ha tolto dall'imbarazzo di quando la prima uscita, e come una sorta di campionario delle varie tipologie di scrittore di ricerca, ed effettivamente è un primo esito di quello che ho iniziato a studiare, che ho iniziato a praticare negli ultimi 3 anni, diciamo, di attività letteraria. E quello che accade in questo libro invece anche nel mio caso è un po' un cercare di andare oltre l'applicazione mera delle tecniche, quindi non tanto una sperimentazione pura e semplice, ma anche un tentativo di trovare nel materiale autoprodotto, quindi anche qui c'è del materiale prodotto, diciamo, originalmente da me, trovarci però una fonte da cui poi tirar fuori altro, quindi oggetto di manipolazione. Quindi ci sono alcuni brani, alcuni testi che sono particolari perché forse non si riconoscono, ma sono senz'altro dei testi che invece hanno originato in parte anche dall'esperienza personale. E tra questi vediamo un po', potrei leggere, ce n'è una serie in particolare, grosso modo quella che è intorno alle pagine, la pagina 60. Leggerò attraverso 2, pagina 63. A strati, attraversa a fatica, anche volendo. Volendo è una parola, stratificata, a strisce per lo più grossolane, di pasta ruvida, a grana grossa, mastica bene, lentamente, tranciando con cura, arriva in fondo, è tutto dire, ma in realtà vuole attraversare. Non è la prima volta. Lo fa spesso? Sì, lo fa così, senza pensare. Mastica e poi rimette. Fatica ad attraversare. Grani di pasta grossa a strisce ruvide. Così, ecco, lo fa. Lo sgrana. Che modo però, che modo qualunquista, strascicato, di portarsi, di attraversare. È ancora giovane poi, no? E osserva come se, sgrana lo sguardo come se, e invece, inciampa, no. Saluta la cameriera, sì, ma con deferenza, è straniera. L'ascensore alle spalle, la hall, è a grana grossa, è a pasta ruvida, ma almeno non è a strisce. Fatica lentamente, suda, non è la prima volta. Saluta a malapena l'uomo alla porta. Ma che modo? È vero che qui manca l'acqua e l'autostrada è appena potabile. Guarda intorno senza cura. Trancia l'asfalto a passi corti e ruvidi. Vorrebbe bere. La lingua sul palato è a grana grossa e ruvida. Il cielo è di pasta corta, a grana grossa, pastoso, corto e grasso. Si lascia masticare con fatica. Potrebbe piovere, invece. Allora, io sono una persona dotata di veramente poca fantasia, ve lo dico tranquillamente, quindi invece ho tanto desiderio di averne. Cosa succede? Che ho deciso di, appunto, di operare in questo modo, di scrivere e di rielaborare eventualmente. Non scrivo di getto, non do in pasto ai lettori la mia interiorità, non riproduco con tecniche in cui forse sarei anche capace sentimenti, emozioni, avvenimenti, ma mi piace di più il risultato di quello che poi risulta essere un taglia e cuci, un'integrazione, un inserire oggetti estranei all'interno di un discorso che può anche avere, appunto, come in questo caso, un'origine del tutto personale. E, trovo che in definitiva l'operazione abbia un esito che, almeno per quanto riguarda la mia scrittura, ha un esito più significativo di quello che potrebbe essere una tradizionale letterarietà, una narratività, ecco, quello che potrebbe essere l'esito come un racconto, un brano di un romanzo o anche una poesia. A me dà più, mi dà più significato questo genere di esito, mi sembra più importante, questo per dirvi quello che accade. Un po' come, cioè, forse è un esempio che ho fatto un po' troppe volte, magari qualcuno che l'ha ascoltato sarà annoiato, però è l'idea di non dare al lettore un appuntamento in un luogo che già conosce. Questa forse la cosa, perché non lo conosce nemmeno lo scrittore, o almeno non lo conosce finché non ha completato il testo. E dopodiché anche nell'atto di lettura questo testo in realtà si scompone in tante piccole frazioni che non sono necessariamente dei suggeritori di dove il lettore debba andare a parare per interpretare il testo. Quindi, a mio avviso, il senso di ricerca letteraria, che è chiaramente tutto quello che stiamo dicendo in qualche maniera ha ovviamente una parentela profonda con tutto quello che è successo in Italia dal 1961 a oggi, però aggiornando tutto questo alla situazione contemporanea, anche storica, anche biologica, biografica, eccetera, però senza mai appunto cadere in quel peccato che Corrado Costa chiamava il peccato della riproduzione, in un testo come La soddisfazione letteraria, che è del 1974, quindi insomma andiamo alle origini, alle radici di quello che più o meno si intende per ricerca letteraria. Io invece volevo leggervi una cosa che vediamo se riesco a trovare. Questo è un testo che addirittura viene dal 2005, quindi anche se era un periodo in cui soprattutto in inglese facevo alcuni esperimenti di googlism, è quasi una prosa espressionista, e questo dà l'idea, pur con una serie di inciampi che ci ho messo poi negli anni successivi, soprattutto per fare questo libro, e dà l'idea appunto di un discorso non centrato su una dislocazione dell'inconscio in un dispositivo, ma una cosa che ho scritto. Dove? È pagina 25, Corte Nemorense si intitola, e nel cortile evento opposto è esattamente quale cosa? È il principio del mese dopo, luglio. Al principio la porta petrolio legno sa cigolare, fa semplice, fa si apre per far entrare festa di due occhi, il lutto di una coda di parenti, un dato numero di buste brune di carta che scricchiolano, un'albicocca oppure solo una sua parte marcia lanciata dal cieco al primo piano, lo spessore delle lenti, un altro ancora che altera scale di clarino sotto tetti, oltre la svolta, lo strombo dove due spioventi inquadrano Venere, per chi sul terrazzo tende i fili che un diverso vento la settimana prima aveva strappato verso l'alto, senza che questo annunci variazione da allora. Sul sangue buttato radendosi, il prete passa e ripassa la picca di allume, uscendo da una ringhiera rossa a ponte, il topo, già salito, gronda mezzanino, guadagna altri metri, fa un tuffo tra le foglie, chissà di chi. È femmina e depone i suoi 5-10 sacchetti di fame e siero che digeriscono subito il mondo, lasciano piccoli fori bruciati, strappi, escrementi. Poi la gloria di una carcassa di stoffa e spugnoso dove tra l'erba alta, lo spigo giallo e i forasacchi, una stadera di sola ruggine apre le braccia qua per dondolare fune assi leve. Avevano cercato, facendo forza lì, di schiodare un motore. Nel resto del prato dietro, resti di spazio cascano in resti di tempo. Qualcosa di quanto detto invecchia e viene calciato giù dai gradini dai nuovi padroni che una con i capelli rossi osserva senza ridere, piegando però di lato la testa come se torcere le cose viste fosse inclinarle verso la trappola, una punta di ferro. Sarebbe bello leggere anche una cosa dalla saga, no? Ok. Che proprio insisti. È un libro che a me è molto piaciuto, ovviamente. Che allora, scegli tu la tecnica. Sì, beh, facciamo che lo apro a caso, va? Ok. Allora, questo è lunghissimo, no? Vesi risparmio. Tappeti X. Chiama sua moglie. Gli appartamenti di cemento in inverno sono estremamente freddi. Le chiede di mettere la mano sui tappeti di lana e di tenerla in quella posizione. Un fiammifero acceso accanto alla parete del soggiorno inizia a bruciare verso il basso. Nel vedere il risultato, alla parete del soggiorno prende quasi un accidente. Ho visto correnti discendenti di aria fredda, dice. Vede nitidamente che nella cucina accanto c'è chi guarda la televisione. La carne sparita, per non parlare dei litigi dei vicini. Di una cosa è certo, a modo loro sono belli. Per sottolineare che non sa niente, chiama in Russia. Nel giro di poche settimane, un salario mensile medio diventa di 120-150 rubli, anche per i proprietari terrieri benestanti, anche per le teste coronate. Alcune famiglie più agiate, come quelle che promettono in un elenco in ordine cronologico di violare la segretezza di capi di abbigliamento, lavatrici, tritacarne, credenze e set di vasellame delle camere da letto, suscitando l'indignazione di ingegneri benestanti e dei funzionari municipali civili e ispirando scrittori di fumetti nella vita quotidiana, prendono l'abitudine di appenderli alle pareti utilizzando fili. Diventano un oggetto indispensabile, soprattutto in campo medico. Prevengono la gotta. Adesso vorrei leggerlo io un testo da Ocatrene. Va bene, ricambierò. e sono un po' indeciso perché ce n'è uno un po' più lungo e uno un po' più breve. Forse leggo questo anche per un motivo molto semplice, che questo è un libro che ha anche fa anche un lavoro sulla testualità di carattere spaziale, non essendo poesia visiva, non costruendo un discorso in questo senso, però ha delle particolarità. E qui vedete un inizio, un incipit di quattro righe e poi il testo che si sposta improvvisamente da una parte. E questo in qualche maniera ha a che fare con quello che dice il testo stesso, che si intitola Per piacere, perché il libro è pagina 113. Anche il testo dopo funziona allo stesso modo. Di solito sottolineiamo, ma ci distraiamo molto, a lato, a destra. In questo momento non ci serve. Quest'idea è molto aperta. Non ha ancora perso la strada. Ci piace l'idea che l'idea possa essere qualcosa anche correlata. Questo è troppo, attraverso l'occhio è troppo, ha perso la strada. Eppure, nonostante la svolta epocale, ci interessa la filosofia, ambiente accademico? No. Ci piace l'idea di un punto di svolta, ci piace il semplice esperto. Quando va fuori, sottolinea i mostri presenti e già lavorati. Inizia a connetterli. Potranno adattarsi, dividersi, osservarsi. La connessione è inflessa, il fracasso generato un semplice dettaglio. Ogni frase è un foro, un fallimento, a volte un quadrato. Non può vedere tutto, ma può vederlo più e più volte. Giochiamo al repertorio che ossessiona, aiuta a concentrarsi, è un punto di svolta, la condizione naturale per perdere di vista tutto. Apriamo al pubblico le domande? Le domande. Ma io volevo leggere una cosa tua. Abbiamo letto poco. Voglio dire. Okay. Scusate. Vuoi suggerirmi o vado io? No, vai tu, dai. Libertà. Allora, vediamo un pochino. Per esempio, 375? Pagina 32. Che inizio, sì. Abbastanza all'inizio. Anche questo viene dallo stesso testo da cui ho letto prima. Ah, vedi. Stesso periodo. Stesso periodo. 375. Alla fine lo ritirano dalle sale. Non lo proiettano più. È vietato. Era troppo violento, con scene di violenza di grado insopportabile. Costernazione in tutti. Per protesta, gruppi interi e in diverse parti del paese, indipendentemente, mettono in atto delle scene del film. Se non possiamo vederlo, lo riproduciamo, dicono. La cosa è molto complicata perché alcune parti sono davvero bagni di sangue e male orge e mutilazioni che finiscono con cataste di 30 metri di carogne, animali sventrati, pire, deportazioni, aree nuclearizzate, carestie, tortura, cristallerie di cloruri al posto dei mari. Quando decidono di ritirare il bando e tornare a proiettarlo nei cinema, non ci sono più spettatori. In certi casi nemmeno le sale. La geografia è così cambiata. Qui, dove c'era un gran pascolo, adesso hanno costruito una fossa di cemento di 40 chilometri quadrati vuota. È sempre, cioè, io lo trovo esilarante, al di là del fatto che poi magari in realtà non, alla fine non ci sia, non c'è un messaggio che, oppure non c'è, ma c'è comunque un tema di fondo o una vibrazione di fondo che di esilarante a poco. Anzi, forse il meccanismo della, così, della, dell'ironia aiuta anche a scardinare diciamo le assi di legno del pavimento sotto il quale stanno i mostri effettivamente. E volevo sapere, volevamo sapere se avevate qualche curiosità o se potevamo continuare a farci domande e risposte all'infinito. Qua io ne avrei, però. Per esempio, dove va a finire, cioè in questo momento, la scrittura di ricerca in Italia? Lo chiedo perché effettivamente tu sei nel campo da sempre. Sta riuscendo a pareggiare il conto? È riuscito a raggiungere un po' il terreno che aveva perso in confronto a ciò che sta fuori dall'Italia? Cosa? Perché... Allora, c'è un fatto che io ho notato, uscendo un po' dai circoli culturali della narrativa tradizionale ed entrando invece in questo settore, che di circolo culturale non ha a dire nulla, e quello che ho notato è che non c'è puzza sotto il naso qua, cioè in realtà gli scrittori si frequentano, si confrontano, si studiano, fanno utilizzo del punto d'arrivo dell'uno oppure del gruppo dell'uno per poter portare avanti e entrare in direzioni, fare entrare in direzioni differenti, diciamo, la ricerca dell'altro, perché comunque non c'è solo Roma, ci sono anche tanti focolai in giro per l'Italia e immagino che ci siano anche tante direzioni diverse, cioè so che ci sono direzioni diverse, per quanto le case editrici sono abbastanza numerosine, sì. Anche se poco rappresentate o per nulla nelle librerie, però ecco, ciascuna ha forse un proprio impianto, una propria visione, oppure degli autori che hanno dell'omogeneità di fondo. Questo porta a una varietà della proposta della letteratura di ricerca, ma mi domando se c'è anche un avanzamento, cioè abbiamo ripreso a occuparcene, abbiamo ripreso a lavorarci, stiamo andando in una direzione, anche se non è una direzione univoca, va benissimo che sia quanto meno sparpagliata possibile, c'è un avanzamento oppure stiamo ancora fermi? Beh, poi questo penso che sia un po' una risposta a cui individualmente vari autori potranno dare la loro, insomma, la loro posizione sulla mappa. Non voglio parlare di me, però per quello che vedo, qualche nome è fatto anche appunto in quel tabloid di cui dicevo prima, secondo me ci sono buone... buoni vettori di crescita o comunque di esplorazione di nuovi territori da parte di autori e autrici giovani, anche molto giovani. Faccio tre nomi soltanto: June Scialpi, Antonio Francesco Perozzi e Giulia Felderer, che sono alcuni, come Giulia per esempio, veramente giovanissimi, che diciamo, per i quali l'impressione è, con diverse gradazioni di adesione a quello che comunque è una tradizione di tra virgolette, e con la minuscola sulla T, di questi ultimi 25 anni, quindi con diversi atteggiamenti nei confronti di questa, appunto, tra virgolette, tradizione, però stanno facendo veramente anche cose altre o molto altre. Per esempio, alcuni di loro magari privilegiano l'aspetto del versante audio, oppure addirittura quasi si, diciamo, distaccano dall'idea stessa della pubblicazione. Per cui possono usare, per esempio, per produrre senso nel modo in cui alcune generazioni producono senso, un mezzo che paradossalmente, tra l'altro, per loro è antiquato come Facebook e non la forma libro. Ci possono essere iconotesti che, appunto, la critica letteraria arriva ad identificare come iconotesti, quando c'è una, in realtà, una grandissima tradizione, giustamente riconosciuta dagli studiosi di iconotesti in tutto il Novecento, Najadi, Breton, ma insomma quante ne vogliamo. Quindi io personalmente sono molto ottimista su queste generazioni, lo sono un po' meno sul fronte su due fronti. Allora, uno, le possibilità che una editoria di carta che si sostenga economicamente possa intercettare e promuovere, come si poteva promuovere un tempo, come poteva fare la collana Materiali di Feltrinelli negli anni 70, autori più o meno giovani. Perché questo è molto difficile, perché i libri costano, sono delle spese, quindi, diciamo, il versante online è un versante estremamente esteso. Io stesso faccio parte di alcune redazioni che di volta in volta propongono ogni settimana un testo nuovo. Quindi questa è una difficoltà. L'altra difficoltà, che non è detto che sia una difficoltà, però sicuramente è un grosso interrogativo che rimane aperto, è il rapporto non soltanto delle giovani generazioni, ma di tutti noi, con l'intelligenza artificiale, che è un tema che tutte le volte, anche se uno parla di patate al mercato, deve per forza comunque parlare di intelligenza artificiale. Non c'è conferenza che non, a un certo punto, non tiri fuori l'IA. Però di fatto, parlando di scrittura, in qualche maniera ci dobbiamo misurare con questo. Io ho trovato che alcune cose molto interessanti le stanno facendo, per esempio, in ambito di letteratura elettronica e, per esempio, non so, adesso faccio sempre questo esempio perché a me sembra veramente molto in gamba lui, Fabrizio Venerandi, che non soltanto scrive poesie elettroniche, cioè degli oggetti strani che tu puoi visualizzare solo al computer, che hanno anche delle modalità trasformative evidenti, cioè insomma, testi che quasi orbitano su se stessi, si modificano mentre li si osserva, eccetera, ma anche dei lavori di fumetto, cioè semplicemente demandando all'intelligenza artificiale la creazione di una serie di frame grafici su cui poi lo scrittore interviene con delle testualità quanto più possibile, diciamo, aderenti o non aderenti, anche antididascaliche rispetto alle immagini. E questo, in questo, appunto, io credo che Venerandi sia molto in gamba come autore. Anche lì, dove pubblica? Pubblica in rete, per adesso, poi vedremo se... Certo, non puoi pensare che poi offri queste cose a un editore di grande distribuzione e le pubblica così. Forse anche un qualsiasi editore, perché comunque sì, vorrei sapere su quale supporto si può essere in grado, cose, di fruire, certo, nelle, certo, sperimentazioni estreme. Venerandi poi, tra l'altro, ha una lunga militanza in questo tema, quindi ovviamente fa pratica anche da grandissimo esperto, con strumenti che non sono alla portata di tutti. Sì, sì, sì. Però gli esiti sono veramente alla portata di tutti, nel senso che la godibilità del suo lavoro è estremamente evidente. Sì, sì. E c'è un adesso, per il momento è soltanto uno spazio, se non sbaglio, diciamo privato, insomma, in qualche maniera, però dovrebbe aprirsi anche come sito, eccetera, e uno spazio che si intitola Letteratura Elettronica Italia, e credo che, appunto, di cui anche fa parte Fabrizio, di cui è curatrice Roberta Iadevaia, che è una studiosa importante di letteratura elettronica, ha scritto anche un libro fondamentale in questo, per Mimesis, che ricostruisce le vicende della letteratura elettronica in Italia, e che probabilmente, appunto, offrirà i suoi vari spazi più avanti a sperimentazioni che, appunto, escono anche dalla forma libro, ma come in fondo le avanguardie sono sempre uscite dalla forma libro, magari riproponendo il libro come oggetto d'arte, oppure uscendone veramente in senso musicale, performativo, eccetera. Per cui io, diciamo, sono diciamo, moderatamente ottimista guardando autori e autrici singoli, singole. Come credo tutti noi, così, insomma, in posizioni con un po' di punti interrogativi, così con un fumetto che è pieno di punti interrogativi sulla testa, guardando alle forme. Anche perché, a differenza di... abbiamo visto la linea temporale dello sviluppo e del decadimento dei supporti, dal disco 33 giri al 45 giri, 33, 45, 78, 33, 45, poi CD, adesso MP3, eccetera, e quindi non sappiamo effettivamente anche per altre forme e formati come sarà. Sì, che poi sopravvive sempre lui il libro. C'ha 500 anni, 600 anni. Io gli darei fiducia anche per il futuro. Se la cava. E quindi forse vale la pena insistere anche con le case editrici come The Click a scommettere sull'oggetto libro, esatto, come vettore di questa, comunque sia di un corrente estremamente fantasiosa, che sicuramente tracima anche in altri formati, con altri supporti, ma poi in definitiva il fruitore medio della letteratura utilizza necessariamente il libro come, sì, proprio strumento di fruizione. Quindi forse appunto l'autore poi di multimedialità dovrà fare magari sempre il minimo sforzo di cercare di ricondurre alla pagina quello che fa al di fuori della pagina stessa. La settimana scorsa, più o meno, qualcosa di più, qualcosa di meno, eravamo qui da Alberto a presentare un libro che è NZ di Antonio Sixti, che è un libro che tiene dentro, quindi in forma libro, riesce a tenere dentro dal 1980 a praticamente oggi tutta una serie di sperimentazioni incredibili che vanno dalla trascrizione di materiali che organizzano il movimento di alcuni performer all'interno di uno spazio di una discoteca negli anni 80 a dichiarazioni inventate di personaggi inventati, un fan club inesistente, cioè tutta una serie di cose, fotografie, immagini, tutta una serie di cose che oggettivamente, anche qui, no, sconvolgono, diciamo, scompaginano l'idea di genere, perché un libro come quello, come questi libri qui in fondo, non sa se collocarli nella narrativa, nella prosa, nella poesia, nel libro illustrato. Comunque sul fatto che il libro effettivamente, io direi che possiamo un po' scommetterci, cito una frase di uno degli autori di ricerca letteraria più forse noti, che anche sta pubblicando anche con editori come Hopeful Monster, per esempio, ultimamente ha pubblicato anche con Tic, che è Gherardo Bortolotti, che dice molto semplicemente che questo è un oggetto perfetto, è praticamente il libro, è come il martello, non lo puoi perfezionare, è arrivato. Più di così non, vero, non si può, sì. E quindi questo spiega. C'è anche da dire che sul discorso della, per esempio, quello che fa Veneranti, no? In realtà da carta, da quando sono venuti fuori la tecnologia di QR code, eccetera, è tutto linkabile, quindi in realtà, certo, l'ipertesto è inseribile tranquillamente anche proprio con riferimento ad altri media, ad altri luoghi virtuali o meno, tranquillamente, sì, la carta. Quindi, esatto, la carta può rimandare a qualunque cosa tramite inquadratura sul cellulare, smartphone, e poi chiaramente questa cosa non finirà con l'eventuale fine di smartphone di QR code, ma ci saranno altri modi per, certo, fare la stessa cosa, quindi tramite i libri in realtà il problema è un falso problema, perché basta linkare, esatto. Cioè, fino a qualche tempo fa non era possibile, cioè potevi trascrivere un link, che però poi dovevi riprodurre manualmente su, certo, quello che in realtà adesso puoi linkare semplicemente, certo, certo, in questo modo, e quindi tante cose che sono uscite anche, insomma, sì, sì, esatto, con link a, sì, sì, a video, sì, esatto. YouTube, oppure a siti interattivi, cose del genere, insomma. Esatto, vero, verissimo, vero, verissimo. Voi non avete qualche curiosità? Siete tutti molto concentrati sul mio guanto giallo. Non vi distraete. Questa è un'arma di distrazione di massa. Di massa. È fatta apposta. Richiama altre. Richiama la casa lunga. No. Volendo, no. Richiama quello che succede altrove, dove si distrae facilmente. Allora, vogliamo leggere un ultimo brano a testa, dai, magari? Vai. Ciascuno dal proprio, viceversa? Come vuoi. No, è troppo libera. Facciamo Beh, ciascuno dal proprio. Ciascuno dal proprio, sì. Dai, scegli tu, dai. O scelgo okay. Io. Carta, forbice e sasso. Va bene. Io non so se farvi male, quindi proporvi Oca 3 Toc Toc, che è una cosa che voi però non meritate perché fa molto caldo. E, oppure farvi ridere o qualcosa che ancora non ho letto, per esempio. Facciamo così, a caso. Ok, puntando il dito. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Molto a caso. Innesco in atti. Che cosa mi ha salvato dal diventare completamente un soffitto o scanalatura di legno o altro materiale a norma inamidato? Ah, l'illuminazione artificiale che deve essere sempre in diretta e posta a un angolo di 45 gradi, sia per le sue caratteristiche ambientali microclimatiche che per la presenza di pareti e pavimenti non facilmente lavabili e disinfettabili. Ah, l'istinto della ribellione che da bambini era contro i ricchi e finisce quando lo sposo e la sposa si allontanano per dirigersi al luogo di ricevimento. Ci andavano il figlio del macellaio, del farmacista, del negoziante e tessuti, cospargendo sale sulla faccia superiore, sui genitori, sui testimoni e sui parenti stretti. Ah, che vengano riprese da angolazioni diverse la maturazione e la stagionatura delle forme, le decorazioni, i dettagli, ciò che realmente significavano le cose di Marx. Ah, che ogni elemento sia pronto all'azione almeno un'ora prima in locali ricavati nelle case di abitazione o in annessi rustici. Queste inclinazioni generiche così precoci inizieranno a lavorare differentemente in maniera tale da rendere minimi i rischi di contaminazione. Il resto dovrebbe essere meno problematico per la maggior parte, che dovrà essere più di uno. Non significa due. Un terzo elemento è sempre necessario, quantomeno come assistente. Ho poca fiducia nella tua capacità di osservare le loro tendenze, tuttavia puoi ridurre al minimo il rischio di spiacevoli imprevisti. Raggiunta la temperatura di coagulazione per la lotta, se c'è qualcosa da eliminare lo si farà in post-produzione. Quante volte ho ripetuto queste parole, poi ho conosciuto la classe operaia, allevata per la sua triplice attitudine, latte, carne e lavoro. Oltre alla qualità, è importante la quantità di 10 in tutte le materie nelle scuole elementari. Altre caratteristiche di una città industriale, 3 se l'evento è stato pensato particolarmente in grande, e non contiene additivi. Ritorna a A. E c'è un'altra parentesi, sì, dove uno dovrebbe ritornare. Perché quella è l'ultima cosa, una nota a piedi pagina al fondo. Sì. Allora, no, a proposito dei testi installativi, che cos'è un testo installativo? Un testo installativo è un testo che può essere, appunto, ecco, non so, una rassegna di resoconti del meteo degli ultimi 15 anni, giorno per giorno, per cui tutta trascritta, nessuno la legge tutta, e ci gira intorno come si fa con un monumento, no? Che è fatto di magari semplicemente una scultura astratta fatta di tanti cubetti, uno non è che sta a guardare cubetto per cubetto, ci gira intorno, lo guarda, apprezza qualche dettaglio e poi se ne va. I testi installativi sostanzialmente funzionano così. Questo qui è l'unico testo installativo che sta in questo libro, si intitola, e ovviamente non ve lo leggo tutto perché sennò vi sottoporrei alla lettura di cubetto per cubetto, e quindi andrò in ordine più o meno casuale, e questo poi sposta l'oggetto installativo verso l'oggetto performato, perché chiaramente lo leggo a una certa velocità che cambia la natura installativa e quindi ne fa una cosa ancora diversa. Quindi questo è l'esempio classico di un oggetto che nasce in un modo, può essere fruito in quel modo, quindi così uno sfoglia, dice ok, si diverte guardando qualche, e però nel momento in cui passa all'esecuzione vocale cambia. Voglio dirti che io l'ho letto tutto. È stato dura, ma ce l'ho fatta. Questo libro ha un'altra peculiarità, cioè lavora anche sul ritorno, cioè ci sono dei testi che sì, nel testo variati ritornano, e così anche all'interno di questa sequenza ci sono dei ritorni. Il testo si intitola «Affidiamo a questa dispensa il difficile compito di lasciare una traccia. operammo nell'aspro e teso clima dell'immediato dopoguerra. Il costo delle pere era altissimo. Le chiavi della città furono donate su cuscini di seta a tutti i piloti di motociclismo. Alla cerimonia i sottosegretari piangevano come vitelli per la pioggia di denaro. Erano lacrime di felicità, di conversione, di vittoria, di un difficile connubio, di smalto, di istituti di polizia, di ontologia, di larve del legno, di lavigne, di Teseo, di Ettore, di coccodrillo, di gendarmeria, di decisione, di soppressione, di concussione, di sparizione, di avvelenamento, di avvilimento, di superchieria, di pornografia, di Roma, di stoli, di assicurati, di speleologi, di cantanti, di sperma, di formiche, di massa in tumulto, di onestà, di temi svolti, di Macerata, di Modena, di Missolungi, di Sanfedista, di economia, di attenzione, di combattimento, d'acqua, di plastica, di Brahma, di comunismo cinese, di Fantini, di postumano, di amministrazione venduta, di abigeato, di scoglionamento, di rapina, di fustigazione pubblica, di scuse, di perdono, di significato oscuro, di apprezzamento, di vampirismo, di Nenni e Togliatti, di bibliografia, di fit leaking, di gipsoteca, di Samarkand, di Hyde, di storia delle dottrine politiche, di Sorgente, di Bombacca, di Teala Pesca, di Fito Stimoline, di Ciarrapico, di Latta, di Giunco, di Longanesi, di Longheroni, di Maccheroni, di Marco Aurelio, di Coca-Cola, di Mostro Secco, di Merda Secca, di Fedifraghi, di Tricologia, di Cispa Bruna, di avvelenamento, di soperchieria, di pornografia, di Roma, di stuoli, di assicurati, di speleologi, di cantanti, di sperma, di formiche, di massa in tumulto, di perdoni, di significato oscuro, di apprezzamento, di noce vomica, di Tarzan, di famiglia, di Spadino, di WordPress, di nuovo da capo, di Murales, di Macerie, di Rottami, di Spavento, di Cattivo d'Ora, ma poi fulminiamente di Sacerdote, di Cantiere, di Gastrite, di Massoterapia, di Magnetoterapia, di Solista, di Copacabana, di Riordinamento di Papiri, di Aldo Moro, di Seminario, di Macchina di Turing, di Lame Rotanti, di MySpace, di Intensa Spiritualità, di Levitazione, di Audiovisivi, di Ambulanze, di Laringe, di Ventate, di Maggiolino, di Muco, di Audiovisivi, di Criogenizzazione, di Cantastorie, di Elettricità, di Portinaia, di Verziere, di Motel, di Mandelbrot, di Tossici, di Dipendenti, di Numa Pompilio, di Rutilio Namazziano, e poi tornò una ancora più serena lietezza. Volendo. Se uno avesse bisogno, sì, prima di fare un discorso. Ora, volendo, diamo il via alle danze dialoganti al di fuori della... però non è... Sì, come no? Che era un caso sull'ultimo che ha letto... Sì, Francesca. 375. Ah, sì. Il titolo, no? Sì. Quale, scusami? 375. Sì, che era il testo... Sì. Quello sì. Sulla, sì, sì. La disumanità... Sì, sì, sì, sì. E perché i numeri sono 3, 7, 5, tornano al centro? Ah, ecco. No, in realtà è un testo che nel libro originale in cui uscì la prima volta, il libro librettino si chiamava Numeri Primi, non aveva un titolo, era un numero, non ricordo neanche che numero fosse, era un numero primo comunque, perché era un libro fatto di così. Però avevo mantenuto la data di scrittura, che era il 3 luglio del 2005, e quindi ho usato quello come titolo, ma una banalità assoluta. Mi piace come ritmo. 375. Ok. Sveliamo i segreti del laboratorio. Sì, no, però diciamo che è interessante perché Marco rimette mano ai propri testi, cioè non è affezionato ai punti d'arrivo delle volte precedenti. Vanno a rovinare le... Sì, tende a prendere testi già editi, tra l'altro, e riproporli così. Modificando. Sì, cosa che non è da tutti, onestamente. L'autore è sempre molto, alla fine si affeziona. Quindi... Beh, forse una caratteristica di molte scritture di ricerca è proprio questa, quella di non dare per, diciamo, museificato il proprio lavoro e comunque intenderlo come una sorta di costante materiale plastico. Sì, cioè c'è una... Nel suo voler interagire con il lettore anche, è in grado di appunto di non dare per scontato l'esito precedente, no? di ritornare sul discorso, come quando si incontra un amico e si riprende, no? Quello esatto, che era stato detto la volta prima, e si prova anche a dare conto. Probabilmente l'idea di un continuum che però viene campionato forse, no? In modo ad accesso casuale. Questa è un po' la sensazione. Ok, e poi magari rielaborato, sì. E certo. Sì, certo. In effetti è un po' anche, come dire, la tecnica del cut-up può anche essere utilizzata in questo modo, cioè non è detto che debba essere semplicemente l'unione di più fonti più o meno lavorate dalla mano dell'autore, ma semplicemente potrebbe essere anche l'elaborazione di un testo che poi viene a sua volta rielaborato e riproposto come una parte del testo installativo di Marco ha dimostrato, dando anche delle reiterazioni di temi e di forme. Comunque sia, sì, l'esito è interessante, cioè, io devo dire che da lettrice mi piace essere sfidata, mi piace essere sorpresa e poi a sua volta mi innesca, non so, poi magari non è da tutti questa voglia di dialogo, per cui entro anche in un discorso con l'autore, cioè provo magari a essere anche io, mettermi su quel piano e tentare di giocare, in fondo giocare alla stessa partita, diciamo. Beh, il modo in cui ci siamo conosciuti con Francesca è stato attraverso il suo sito che si chiama I Calamari, che aveva un progetto di lunga data basato sul Pantone, e se non è un gioco questo, cioè sostanzialmente chiedeva agli autori che mandavano dei testi, quattro testi, in qualche modo legati a un codice, quindi a un colore specifico, molto specifico della scala cromatica del Pantone. E io però non avesse un'attinenza sinestetica, esatto, stretta, cioè che ci, esatto, fosse comunque la totale libertà di interpretazione. Esatto, esatto. E quindi ecco, il gioco secondo me sta anche molto alla base anche dei dialoghi tra gli autori, se non sì, così, la tristezza è finita, se no. Secondo me chi ha la fortuna di apprezzare la lettura, cioè di non considerarlo un dovere ma un piacere, a sua volta dentro di sé ha la capacità, magari va lavorata, va affinata a quello che vogliamo, anche di essere autore a propria voglia, a propria volta, e quindi io lo ritengo veramente importante che si accorci la distanza tra autore e lettore, perché un autore può essere bravissimo, ma dal momento in cui si trova su un piedistallo esaurisce il suo compito, cioè non ha la capacità di lavorare, perché sarebbe esattamente il contrario di quello che si può fare, ma di stimolare chi legge a diventare attivo a sua volta. Quindi secondo me anche il gioco dei blog che c'è stato all'inizio del 2000, che io ho approcciato anche un po' tardi perché ho iniziato nel 2012, poi lì è finito abbastanza velocemente, anche se esiste ancora, il gioco dei blog ha aiutato a fare questo, cioè persone comuni che si sono messe in gioco e hanno avuto la capacità di esporsi, la volontà e la faccia tosta di esporsi e di non tanto di esporre il proprio io, sì, tanti lo hanno fatto, ma anche proprio quello di mettersi in relazione differentemente dai social network che hanno altri schemi. Lì si trattava di portare avanti una propria visione, una propria eventuale poetica o proprio dei propri spazi di sperimentazione e vedere di trovare delle affinità, e questo va al di là dell'ego, dell'esibizione dell'ego. Penso che una parte della letteratura possa funzionare così anche appunto attraverso la scrittura di ricerca e quindi attraverso la fluidità anche dei mezzi attraverso cui si propone la scrittura letteraria. Poi siamo qui per imparare, infatti abbiamo preso un banco di scuola. Adesso interroghiamo. No, siamo interrogati. Allora, io ringrazierei Carlo, un applauso ce lo facciamo meglio dall'editore. Sciogliamo la seduta. Sciogliamo la seduta. Tana libera tutti. Questo è molto bello, mi è piaciuto molto. Perché era scrittivo. Bene, fa piacere. Io ho sentito parlare con Carlo.